24 mattino. Alle 8 e 17 minuti, rieccoci qui con 24 mattino ed è il momento dell'economia. Soldi e dintorni. Eccoci con Deborah Rosciani, ben ritrovata Deborah. Buongiorno a tutti, ciao Alessandro. Allora, oggi parliamo di Poste e di una novità in arrivo per quel che riguarda il CAP. Esattamente. Ti racconto questa storia però prima di partire. Qualche settimana fa è successo in Inghilterra. La signora Janet Barrett si è trovata nella cassetta della posta una lettera alquanto curiosa, non tanto per il contenuto quanto per la data, 29 novembre 1919. Una missiva che è arrivata a destinazione con 89 anni di ritardo, lo ha scritto il Telegraph, era accompagnata dalle scuse del servizio postale britannico per il ritardo e gli eventuali danni. E adesso io non so se il signore che ha inviato questa lettera, che è arrivata con così tanto ritardo, avesse sbagliato il codice deviamento postale. Non so neanche come questo servizio sia disciplinato nel Regno Unito. Fatto sta che oggi parte nel nostro paese una piccola rivoluzione che viene lanciata dalle Poste italiane, e speriamo in futuro, insomma, che situazioni di disagio, non dico di questo tipo ma di qualunque tipo, nel nostro paese possano essere scongiurate. Abbiamo avuto a che fare con qualche caso un po' problematico nel nostro paese negli anni passati, e allora oggi di questa riorganizzazione parliamo con Anna Maria Morsucci di Poste Italiane. Buongiorno e bentrovata a Soldi e Dintorni. Buongiorno. Allora, in alcune città italiane entrano in vigore i nuovi codici di avviamento postale. Cominciamo innanzitutto con lo spiegare qual è lo scopo di questa riorganizzazione. Ma lo scopo di riorganizzazione ovviamente è rendere sempre più efficiente, comunque continuare a garantire standard elevati di qualità del servizio di recapito, perché il codice di avviamento postale ha un ruolo molto importante sia nella fase di smistamento della corrispondenza, sia poi nella consegna da parte del portalettere. Il codice di avviamento postale deve essere sempre messo in maniera chiara e soprattutto, ovviamente insieme all'indirizzo, e soprattutto deve essere preciso, perché così è più facile. Pronto? Sì, no Morsucci, sì, perché ogni tanto la perdiamo con il cellulare. Allora sì, quindi insomma indicazioni intanto e suggerimenti ai fruitori ovviamente della posta: scriviamo correttamente il codice di avviamento postale, questo ovviamente vale soprattutto ovviamente, speriamo di mettere anche quello, perché tra l'altro poi ci sono anche città come Roma e Milano dove capita di usare il codice di avviamento postale generico. Questo crea, immagino, qualche, non dico problema, però insomma ci sono più rischi di disservizio poi per il recapito della posta. Ma i codici di avviamento postale a Milano e Roma non, quelli generici non esistono più, perché già qualche tempo fa era partita, avevamo realizzato un'altra organizzazione per quanto riguarda Roma e Milano, e quindi ormai anche queste città hanno soltanto codici postali specifici. Il codice postale generico in realtà non esiste più. Non esiste più, però diciamo che qualcuno ancora continua ad utilizzarlo, sì, perché non si ricorda quello esatto, diciamo, della località e della via in cui abita. Tornando alla nostra iniziativa, la vostra iniziativa, l'operazione riguarda quante famiglie e quante città? Ma sono circa 1 milione di famiglie, le città sono 14 che passano da un CAP soltanto generico a più CAP in più, e quindi sono Alessandria, Cesena, Ferrara, Foggia, Forlì, Modena, Parma, Pesaro, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Rimini, Taranto e Trento. Queste 14 città passano da un unico CAP a più CAP. Perché proprio queste città, Morsucci? Ma perché queste città fino adesso avevano appunto un unico CAP, le città sono cresciute, si sono create nuove strade, e quindi l'esigenza di toponomastico, cioè il cambiamento toponomastico, ha reso necessario anche cambiare o comunque aggiornare il codice di avviamento postale per rendere ancora più facile il specifico l'individuazione dell'indirizzo e quindi il recapito. Quindi diciamo che per esempio fra un anno o due potrebbe toccare ad altre città una riorganizzazione di questo tipo? Ma questo ovviamente è legato all'evolversi delle città italiane e del territorio nazionale, quindi potrebbe accadere, questo ovviamente poi sarà comunicato ampiamente, come è successo qualche anno fa che avevamo cambiato per 27 città, ora ne altre 14, in futuro potrebbero accadere anche in altre località. Morsucci, i vecchi codici vengono cancellati definitivamente? I vecchi codici sì, non ci sono più, però ovviamente ci sarà un periodo transitorio, sicuramente per 6 mesi, ma anche successivamente, nei quali comunque continueranno a poter essere utilizzati. Come saranno informati i cittadini interessati a sapere se cadono in una città interessata al nuovo CAP? Ma i cittadini stanno già ricevendo delle comunicazioni specifiche, quindi le famiglie sono informate, anche gli enti locali sono stati informati di questo cambiamento. quindi non, cioè, tutti sanno che tutti quelli che abitano nelle zone interessate sanno che avranno questo cambiamento. No, mi risultava anche che ci fosse un numero di Poste Italiane a cui potersi rivolgere per così, insomma, soddisfare la curiosità di sapere formalmente se la città è interessata all'organizzazione del CAP. Cioè, sicuramente noi abbiamo un call center che è l'803-160, al quale ci si può rivolgere per conoscere il proprio codice di avviamento postale, ma anche sul sito di Poste Italiane c'è un'area circa CAP e in quest'area si possono avere informazioni specifiche sul proprio CAP mettendo dentro un indirizzo. 20.000 strade interessate. Noi abbiamo parlato prima del numero delle città e delle famiglie interessate a questa riorganizzazione, ma c'è un'altra cifra che è quella appunto delle strade anche interessate, Morsucci. Sì, beh, sono le strade che comunque hanno cambiato toponomastica, in qualche modo hanno cambiato toponomastica oppure si sono aggiunte, quindi queste 20.000 strade sono quelle che vengono coinvolte da questo aggiornamento del CAP. Volevo dire un'ultima cosa prima di salutarci, che è disponibile presso gli uffici postali anche l'edizione 2009 del libro dei CAP, ma chi lo usa questo testo, Morsucci? Ma non lo so, cioè, nel senso, chi vuole comunque avere informazioni su tutti gli indirizzi, cioè come compilare un corretto indirizzo in tutta Italia, ovviamente può acquistare questo libro presso tutti gli uffici postali. Quindi, insomma, diamo un'ultima raccomandazione ai nostri ascoltatori. Adesso magari si utilizza molto meno la posta, però sicuramente, insomma, ci arrivano le comunicazioni dalla banca, ci arriva la comunicazione delle utenze, delle nostre bollette che dobbiamo pagare, quindi è sempre bene intanto che forniamo il nostro indirizzo giusto con il CAP di riferimento e quindi che lo si utilizzi correttamente anche per evitare che la posta venga dispersa. Morsucci, un'ultima raccomandazione ai nostri ascoltatori. Sì, la posta comunque viene recapitata, però magari se l'indirizzo non è corretto, se ci sono delle imprecisioni nel CAP, c'è il rischio che i tempi di recapito si possano allungare, quindi questo è certo, se l'indirizzo è proprio di fantasia è molto difficile che il portarettere possa arrivare a consegnarlo. Anche se il CAP è scritto correttamente. Grazie molte ad Anna Maria Morsucci di Poste Italiane per essere stata con noi. Buona giornata, Alessandro. Grazie a voi. Grazie a te. Eccoci, allora, tra poco Salvadanaio alle 12. Alle 12 oggi ci occupiamo di nuovo di borsa, come facciamo spesso il venerdì, facciamo il punto della settimana. È stata una settimana piuttosto positiva per i mercati finanziari internazionali, anche grazie allo slancio dato dal famoso piano Geithner per liberare le banche dagli asset tossici. Insomma, il punto della settimana. Le 8:31 minuti, uno sguardo alle ultime notizie. Non sarà obbligatorio per i medici rispettare la volontà del cittadino sul fine vita, e questa è la novità più importante del disegno di legge sul testamento biologico approvato ieri dal Senato e che ora passerà alla Camera. Proteste dall'opposizione. Nella seconda metà dell'anno l'economia segnerà una timida ripresa con una crescita del PIL nel 2010 dello 0,8%, sono le stime del centro studi di Confindustria, che entro il 2010 prevede 507.000 posti di lavoro persi. Replica del ministro dell'economia Tremonti: non credo che sia un momento in cui è ragionevole fare previsioni congiunturali. Si apre oggi alla nuova fiera di Roma, il congresso fondativo del Popolo della Libertà, la nuova sfida politica lanciata da Silvio Berlusconi, 6.000 i delegati presenti. La vigilia è stata caratterizzata da un botta e risposta sui regolamenti del Parlamento tra lo stesso Berlusconi e il presidente della Camera Gianfranco Fini, con chiarimento finale tra i due. Infine, una notizia che riguarda il mondo della TV: Mike Bongiorno rifarà Rischia Tutto su Sky. Lo rivela oggi il Corriere della Sera. L'84enne conduttore televisivo, che ha rotto polemicamente con Mediaset, avrebbe firmato il contratto che lo porterà a condurre 12 puntate dello storico quiz a premi proposto in Rai nel 1970. Ed è il momento del commento del direttore del Sole 24 Ore, dedicato oggi al nuovo libro bianco sul lavoro in arrivo settimana prossima. L'asterisco di Ferruccio De Bortoli. La settimana prossima il Consiglio dei Ministri dovrebbe approvare il nuovo libro bianco sul lavoro. L'autore è il ministro del welfare Sacconi, il padre Marco Biagi, ucciso 7 anni fa dai terroristi. I punti qualificanti: una maggiore attenzione al lavoratore con politiche attive che lo riqualifichino e lo mettano in condizioni di cambiare più facilmente occupazione. Una protezione sociale attiva in cui la concessione di diritti si accompagna a più responsabilità da parte di chi ne beneficia. E soprattutto una più elevata attenzione alla famiglia, più servizi e tutele alle madri che lavorano e incentivi per incoraggiare la natalità. e un ruolo attivo anche per gli over 60. Perché debbono andare in pensione subito ed essere trattati spesso solo come un costo eccessivo dalle aziende? Non si potrebbero studiare forme contrattuali, anche part-time, che nel rispetto dei diritti individuali alla pensione concedano la libertà di continuare a lavorare in modalità diverse, istruire i giovani, per esempio, o svolgere servizi sociali? In Italia solo il 19% di chi ha più di 55 anni lavora. Pochissimi rispetto agli altri paesi. Quanta esperienza è buttata via. Buona giornata. Grazie, buona giornata. Ferruccio De Bortoli, ci risentiremo ovviamente lunedì mattina alla stessa ora con l'asterisco. Sono le 8:34 minuti, 349-238-6666. Questo è il numero per i vostri messaggi. Come abbiamo sentito sia nel GR, nelle notizie, nel riepilogo poco fa, ormai lo sapete, il Senato ha dato ieri il primo via libera alla legge sulle dichiarazioni anticipate di trattamento, il cosiddetto testamento biologico, che ora passerà alla Camera tra proteste politiche, tra opposizione che protesta in maniera molto dura. La novità più importante, come abbiamo detto, quella dell'ultimo giorno di ieri, non è l'unico tema per il quale c'è stato il dibattito politico, ma l'ultimo in ordine di tempo, è che la legge prevede che non sarà obbligatorio per i medici rispettare la volontà del cittadino, sostanzialmente non sono vincolanti queste dichiarazioni. Ne parliamo e saluto il senatore Ignazio Marino, buongiorno. Buongiorno a lei e agli ascoltatori. Senatore del Partito Democratico, ma anche medico, noto trapiantologo. Senatore, le chiedo, lei è stato molto duro quando è passata questa legge che ha definito a questo punto carta straccia e anche il bacio della morte alla legge sul testamento biologico. Da medico però, il fatto che non sia vincolante non è un qualcosa, più che da politico, le faccio la prima domanda, da medico cosa ne pensa? Proprio da medico che ha lavorato per quasi 20 anni in un paese, gli Stati Uniti, dove la legge esiste da moltissimo tempo, le dico che il fatto di avere un documento scritto, meditato, frutto di riflessione di un paziente e poterne avere il supporto nel momento in cui si prendono decisioni che evidentemente scuotono emotivamente, pongono dei dubbi profondi, è un supporto importante per il medico che sulla base di quel documento si confronta con la famiglia, se c'è con una persona di fiducia nominata dal paziente, e prende la decisione migliore sulla base delle indicazioni lasciate dalla persona. In altre parole, avendo sempre lavorato in una medicina ad alta tecnologia, penso che la tecnologia non debba costituire un obbligo per nessuno. Alcuni vogliono sottoporsi a delle cure anche molto complesse, altri invece vogliono rinunciare. Penso che con la perdita della coscienza la persona umana non possa perdere anche il diritto di scelta. Il punto centrale, secondo lei, dunque, è la libertà di autodeterminazione. Sa perché molti criticano questo punto, portando sempre un paradosso, a dire se bisogna imporre e far valere sempre la libertà di autodeterminarsi, allora che fare di fronte per esempio a una persona che ha voglia di togliersi la vita? Non intervenire, non salvarla perché sta esercitando la sua libertà fino all'estremo? Sono due situazioni radicalmente e sostanzialmente diverse. È chiaro che in quel gesto c'è un grave disagio ed è naturale per un altro essere umano tentare di aiutare. Molto diversa è la situazione dove una persona ha riflettuto se vuole utilizzare delle cure estreme, straordinarie, alla fine della sua vita, dopo una lunga malattia, cure che possono significare solo prolungare un'agonia, e altri che invece ritengono che a quelle cure non vogliono sottoporsi. E a questo, ovviamente, il testamento biologico negli altri paesi prevede che si arrivi dopo una riflessione che viene fatta con il medico, che ti spiega in un momento in cui non sei in uno stato di gravità estrema estrema, in un momento in cui ancora puoi riflettere, parlare, dialogare, ti spiega quali possono essere le conseguenze di una terapia e le conseguenze di rifiutare quella terapia. Sì. Ma insomma è un principio, non voglio adesso tornare tanto indietro negli anni, ma che venne affermato con grande forza nella discussione che portò alla nostra Costituzione da una persona come Aldo Moro. Che lei infatti ha citato in aula. Perché ha citato nel dibattito in questi giorni Aldo Moro? Perché, pronto? Sì, certo, siamo qua. Aldo Moro nella fase di scrittura dell'articolo 32 della Costituzione disse con chiarezza che nessuno poteva essere obbligato a un trattamento sanitario e che un trattamento sanitario costituisce una libera scelta della persona. Nel nostro paese abbiamo la fortuna del concetto che la salute è considerata un diritto costituzionale, quindi tutti dovremmo avere accesso alle stesse terapie, ma nessuno dovrebbe poter essere obbligato a una terapia. Sono due cose davvero diverse e credo che moltissimi italiani la pensano in questo modo, cioè nel modo di avere al di là delle proprie convinzioni, della propria cultura e della propria fede la libertà di poter scegliere a quali terapie sottoporsi e a quali terapie non sottoporsi. Lei, senatore, si è battuto tanto per una legge, questa legge che lei ora definisce negativa, carta straccia, a questo punto dice meglio questa legge, per avere questa legge meglio non averne nessuna? Certamente questa è una legge che va contro i principi della Costituzione, che dicono che nessuno può essere sottoposto a un trattamento sanitario senza il suo consenso. In questa legge si dice che alcuni trattamenti sanitari diventano obbligatori per tutti i cittadini italiani. Chiunque, trovandosi in stato di incoscienza alla fine della vita, deve essere sottoposto obbligatoriamente a un piccolo intervento chirurgico con l'inserimento di una cannula nel suo stomaco e alla nutrizione artificiale. È evidente che questo va contro i principi della Costituzione e immagino che purtroppo ancora una volta i cittadini, per difendere i propri diritti, dovranno rivolgersi alla magistratura. Perché, spieghiamolo, la nutrizione e l'idratazione artificiale in questa legge non sono considerate delle terapie, dunque rifiutabili secondo la Costituzione, ma sono considerate sostegno vitale. Questo è un punto che lei contesta, dice la scienza non la pensa così. Le chiedo, lei è anche un medico ed è anche cattolico praticante. Secondo lei, come qualcuno esageratamente forse ha detto, è stata una legge dettata dalla Chiesa, dalle pressioni del Vaticano? La maggioranza si è molto arrabbiata su questo punto, a dire non abbiamo accettato e non accetteremo mai nessuna dettatura, ma semmai rispetto ovviamente di tutte le religioni, compresa quella cattolica che è quella predominante in Italia. Lei si sente a disagio in questo momento da medico cattolico? A disagio da medico cattolico, io mi sento semplicemente a disagio da medico, perché tutte le società scientifiche ormai da più di 25 anni considerano la nutrizione artificiale un trattamento sanitario, un trattamento medico. D'altra parte, insomma, non c'è bisogno di essere un medico per affermare che se un paziente deve essere portato in una sala operatoria, deve subire un'incisione col bisturi o con un altro strumento sul suo addome, deve essere inserita una cannula di plastica e cucita con dei punti, ci deve essere la partecipazione di un anestesista, di un chirurgo, di un gastroenterologo e di un nutrizionista, dire che quella non è una terapia medica, evidentemente basta chiunque per sostenere il contrario. Ma voglio dire, questo dal punto di vista scientifico del pianeta dicono che è un trattamento sanitario, e infatti in nessuna legge, in nessun paese del mondo, eccetto che l'Italia, c'è scritto che la nutrizione artificiale non è un trattamento sanitario. Però, senatore, una frase bizzarra scritta soltanto in questa legge in Italia. Però, senatore, mi scusi, la domanda era lievemente diversa sul fatto, cioè lei si sente che ci siano state pressioni del qualcuno dice brutalmente del Vaticano, comunque di una ingerenza nella scrittura di questa legge? In questo, guardi, dicevo, certamente non ci sono state pressioni su di di me, in un senso o nell'altro. Io non so, questo bisognerebbe chiederlo a coloro che l'hanno scritta la legge. Beh, hanno già detto appunto di no, assolutamente. Le chiedo, senatore, ora lei aveva già detto, se ci sarà una brutta legge ci vorrà il referendum, creando anche un po' di tensione all'interno del Partito Democratico. Conferma che quella, secondo lei, è una via? Cioè, se passasse questa legge alla Camera, gli italiani dovrebbero andare al referendum per cercare di abrogarla? Affermato tempo fa che evidentemente quando la Costituzione viene offesa nei suoi principi, il referendum costituisce uno degli strumenti con cui il popolo può reagire, però purtroppo devo fare una considerazione. Credo che prima di un referendum quello che accadrà è che ci saranno delle situazioni dove una famiglia si ribellerà al fatto che un proprio caro, che aveva detto in ogni modo che non voleva quel tipo di trattamento medico, invece nel momento in cui perde la coscienza, perdendo automaticamente anche il suo diritto di scelta, viene portato in una sala operatoria. Io credo, immagino che ci saranno delle scene drammatiche che si concluderanno nei tribunali e poi con un ricorso alla Corte Costituzionale, che dovrà decidere se la legge è costituzionale oppure non lo è. Va bene, io, senatore, la ringrazio per essere stato con noi. Senatore Ignazio Marino, voglio ricordare, del Partito Democratico che si è detto ovviamente molto contrario a questa legge, si è anche spaccato, c'è stata una spaccatura un po' trasversale, sia d'altronde non è che si può seguire sempre gli schieramenti politici, sia all'interno del Partito Democratico c'è chi si è astenuto e chi ha votato a favore della legge, così come all'interno del Popolo della Libertà c'è chi invece ha votato contro questa legge, segno che appunto a volte su questo, forse su questi temi etici, la politica dovrebbe fare un passo indietro. Grazie, senatore. Alle 8:47 minuti, eccoci qui. Cerchiamo di capire cosa succede in Sicilia. Ieri lo ha raccontato in maniera brillante, come sempre gli accade, Gian Antonio Stella sul Corriere della Sera. Ci sono almeno una ventina di politici che sembrerebbero per legge incompatibili, cioè ricoprono più cariche, quella di onorevole al Parlamento siciliano, e poi altre cariche amministrative. Per esempio il sindaco di Messina, Giuseppe Buzzanca, è sindaco ed è anche nel Parlamento siciliano. Oppure il presidente della provincia di Caltanissetta, Federico, è anche appunto parlamentare. Ma ce ne sono diversi, finché qualcuno si è arrabbiato. Antonino Reitano, buongiorno. Buongiorno. Lei è il primo dei non eletti nell'UDC, che sostanzialmente ha detto: c'è una persona che occupa il mio posto al Parlamento che però ha due cariche, una la dovrebbe lasciare, e quindi se si facesse da parte mi farebbe anche una cortesia, perché così sono io che vengo eletto al Parlamento, no? Di chi si tratta? Lei ha fatto ricorso, sì, contro chi? Ho fatto ricorso, e la cortesia la farebbe non a me, ma la farebbe alla collettività, perché occupare due posti contemporaneamente non ha senso. Io sono stato il primo dei non eletti alle elezioni del 2007 all'Assemblea regionale, nell'UDC. Il primo degli eletti ha subito dopo iniziato a svolgere le funzioni di vice sindaco di Messina, sì. Cosa che tassativamente, chi si tratta? Giovanni dalla Costituzione. Chi è? Giovanni Ardizzone. Giovanni Ardizzone. Perfetto, che è onorevole e vice sindaco a Messina. Vice sindaco a Messina. Quindi in una netta condizione di conflitto di interessi, si tratta di proporre da una parte e dall'altra invece si approva quello che si propone. Certo. Allora, qual è l'inghippo? Perché il Tribunale ha detto la sua richiesta non è manifestamente infondata, e quindi sì, insomma bisogna effettivamente valutare. La Corte ha proposto ricorso per dichiarare la decadenza per incompatibilità, grazie all'avvocato Antonio Catalioto di Messina. E il Tribunale ha ritenuto non manifestamente infondata la mia questione e ha inviato le carte alla Corte Costituzionale. E allora attenzione, perché lì interviene il Parlamento siciliano, che fa una leggina di poche righe. Come al solito sono sempre di poche righe quelle che rischiano di fare più danni. Votata in maniera bipartisan, c'è chi ha votato contro, ma insomma votata più o meno da destra e sinistra insieme. Che dice che sostanzialmente è un po' tecnica. Comunque dunque, se una persona è dichiarata incompatibile, ha 10 giorni di tempo per decidere quale delle cariche tenere. Ma se è dichiarato incompatibile in via giudiziale, cioè attraverso un giudizio, da un tribunale, i 10 giorni decorrono da quando la sentenza è passata in giudicato. È solo che la sentenza in giudicato, primo grado, secondo grado, terzo grado, Cassazione, vatte la pesca, no? Reitano, lei può aspettare anni. Un espediente perché non si applichi, così come prevede la legge 22, quella attualmente in vigore, la legge 22 del 2007, che applica e dichiara che la decadenza interviene trascorsi 30 giorni dal doppio incarico. 30 giorni. Sì, quindi i 30 giorni ovviamente sono trascorsi sia per l'onorevole Addizione ma sia per tutti gli altri deputati che si trovano in situazioni di incompatibilità, dovrebbero essere dichiarati immediatamente decaduti dall'Assemblea regionale, al contrario permangono, non solo, ma si vanno a votare una legge che li garantisce ulteriormente. Certo, perché dice lei è andato al tribunale, vuole fare tutto attraverso i tribunali, allora noi mettiamo che se il tribunale mai le darà ragione, la decadenza decorre dalla sentenza passata in giudicato. E come dice Gian Antonio Stella, per passare in giudicato una sentenza ci vogliono 1678 giorni di media, quindi insomma si armi di gran coraggio, caro Reitano, se avrà ragione. Abbiamo la perseveranza giusta. Tra l'altro è con noi l'onorevole del Parlamento siciliano Filippo Panarello, che saluto, buongiorno. Buongiorno. Partito Democratico. Lei è uno di quelli che ha detto no, io non la voto questa legge, o meno voto contro. Perché? Perché è una legge ingiusta? Intanto io sono contrario al cumulo delle cariche, quindi anche la legge precedente che faceva venire meno questa incompatibilità io l'ho considerata in termini negativi. Poi perché penso che non è bene legiferare su se stessi come fatto di principio. E terza questione, mi è sembrata fuori luogo questa norma che fa decorrere la possibilità di opzione dopo il terzo grado di giudizio. Senta, il secondo punto che lei dice, legiferare su se stessi, è perché questo è l'effetto, dai. Cioè, voglio dire, si stava cercando di sanare una situazione e il Parlamento è intervenuto a dire: sapete che c'è, cambiamo un po' le carte in tavola, in modo, no? Ma più che altro, diciamo così, visto l'errore che si è fatto nella precedente legislatura di votare questa nuova, di equiparare, diciamo così, la situazione siciliana a quella nazionale, non tenendo conto che noi siamo una regione, gli enti locali siciliani sono sottoposti a controllo e vigilanza della regione, quindi in una situazione diversa da quella del Parlamento nazionale, avendo fatto quell'errore si è cercato, come dire, con questa legge di rimediare ad un punto controverso, che era appunto quello che legittimamente un concorrente non eletto poteva sollevare. Si è trovato, secondo me, un rimedio peggiore del male, perché il diritto all'opzione, come dire, in ogni caso andava regolamentato, però secondo me non in questi termini. Sì, ma anche perché nel Parlamento nazionale, voglio dire, non ci sono casi, cioè si è risolto questo. In passato c'erano quelli che tenevano più cariche, ricordo il presidente del Molise, Iorio, l'ha tenuta per un anno. Continuano? Almeno le palesi incompatibilità costituzionali, non so, non c'è nessuno che è consigliere in una regione e parlamentare. Parlo degli amministratori locali. Gli amministratori locali, sì. Abbiamo casi clamorosi, il sindaco di Catania e anche senatore del PDL, era di Alleanza Nazionale. Però attenzione, lì c'è una norma che se uno viene prima eletto a sindaco al Senato è tutto legale. Tutto regolare. Tutto regolare. Io parlavo del cumulo delle cariche. Il cumulo delle cariche. Queste però secondo me è il principio fondamentale. Io non capisco come uno possa fare bene il sindaco di una grande città e contemporaneamente il parlamentare. Questo è un altro tema. O fa bene una cosa o ne fa bene un'altra. Già farne bene una, insomma, sarebbe. Se già farne bene una è difficile. Detto questo, Antonino Reitano, lei che fa? Non demorde, le hanno messo questo cambiamento di legge che, se le va bene, le porterà, quando finirà la legislatura, ad essere nominato e eletto in questa legislatura, quindi mai. Cioè che si è pentito ovviamente persisto. Tra l'altro, la pubblicazione di questa legge prevede che non entri subito in vigore, perché trattandosi di legge elettorale ci sono 90 giorni di tempo perché possa essere sottoposto al referendum popolare, se proposto da un quinto della popolazione, da un quinto dei deputati dell'Assemblea. Mobilita. Quindi, la Sicilia per fare il referendum. La Sicilia non vorrei mobilitare le coscienze e il buonsenso. Sicilia ce n'è tanto, però purtroppo c'è una classe dirigente che ha dimenticato che non siamo più nel Medioevo. Va bene, io vi ringrazio. Grazie Antonino Reitano, primo dei non eletti dell'UDC, grazie all'onorevole Filippo Panarello del Partito Democratico al Parlamento siciliano. Sarebbero circa una ventina i parlamentari che hanno siciliani che hanno anche incarichi amministrativi. Beh, 20 non sono pochi. Grazie, tra poco Giuliano Ferrara, parliamo con l'elefante, la situazione economica, la crisi economica, di questo si parla. E io ringrazio Alessandro Marco Tulli e Laura Marchesi in redazione, Carmelo Lauricella in regia, e con 24 Mattino ci ritroviamo lunedì.